Sono le 17:39, su Radio 24 c'è Focus Economia con Barisoni, a cui vorrei dire una cosa. Barisò, tu sarai sempre il preliminare, non sarai mai la figa. Quella arriva fra un'ora. Mi fate parlare? E che vuoi dire sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione è Ma tua, chi l'ha non hai detto? bisogno di Maurizio, ma chiamare scusami un attimo, me. No, no, ragazzi, perché mi dici? adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare Ma la che gente. c'entra? Io non faccio la spalla dei Ma che pagliacci. cosa c'entra? Ma la smetti con Fate queste la cose? propaganda della droga. Siete due delinquenti Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma siete che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Ospedale Bolzano, Cagna, You look so good when you get out. Vieni a Messina, venite a Messina dal sindaco del cazzo qua che abbiamo, con la gente che caga e che pisce in mezzo alla strada, e non ci si può dire niente. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo, io sarò drastico, proprio drastico, perché mi sono rotto il cazzo di tutti questi che non fanno un cazzo la mattina e la sera e vanno solo a rubare, capito? Capito? Qui non si fanno distinzioni razziali! Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Messicani. Staccategli la testa. Staccategli la testa. Ma che vuol dire? Che vuol dire, scusi, signor garantista? Che vuol dire, scusi? Staccategli la testa. Signor Beccaria, signor Beccaria, mi scusi. Lei sa gente che va rubata la mattina alla sera. Lei sa chi è il signor Beccaria? Lo conosce il signor Beccaria? Cesare Beccaria, mi scusi. Lo conosce? Sì, ancora, ma che cazzo mi frega a me di Cesare Beccaria? Ho capito, me l'ho stipendio Cesare Beccaria. No, è morto, poverino, quindi. La mattina alla sera io, ma chi mora? Ma mora è morto. È morto Beccaria, è morto. No, lui dice. Io dicevo che. Scusi, il suo argomentare può, come dire, un po'. Parenzo, lei è un fenomeno, mi perdoni, ma io dico tante parolacce. Bisogna armarsi. Parenzo, te sei su un'altra società, guarda, vieni fuori da Padova e guarda lì cosa succede alla notte, dopo puoi parlare. Non so neanche chi sia Cesare Beccaria, io non so neanche chi sia. Naturalmente. Hey! Hey! David, siamo qui in questa maledetta Italia, in questo se maledetto paese. Se dimostrerò non essere la pena di morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità, dei delitti e delle pene. Buonasera da David Parenzo. Mamma mia. Ragazzi, amici miei, questo è il paese dove un capotreno Allora, questo è il paese dove un capotreno di 25, 26, 27 anni di Trenord, che è una società dei trasporti del nord Italia, in particolare della Lombardia, certamente. Naturalmente, questo signore è andato a controllare il biglietto di un senegalese montato su un treno. Questo senegalese pare fosse dentro il bagno, non voleva dare il biglietto, non ce l'aveva, non l'aveva fatto. Questo ha cominciato a dirgli negro di merda, pare lo abbia insultato pesantemente con allegato annesso di bestemmie. Questo è uscito dal bagno, ne nasce un diverbio, eccetera. Insomma, alla fine che succede? Indovina chi hanno licenziato. Indovina chi hanno licenziato. Secondo te il capotreno licenziato per comportamento inappropriato, per aver litigato con un senegalese sprovvisto di del biglietto su un treno, sì, non della compagnia Trenord. È stato inappropriato, avrebbe dovuto chiamare la polizia ferroviaria eventualmente, ovviamente, sì, e segnalare il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio, non il senegalese o il negro, il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio. Non si può aggiungere che questo invece qua era negro senegalese, non si può dire. È pieno di ragazzotti bulli che ogni giorno sui treni, sugli autobus, sui tram, sulle metropolitane viaggiano senza biglietto e imbrattano il suddetto mezzo pubblico impunemente, quindi non è, i teppisti sono da, ci sono dappertutto. Cosa accadde su quel treno che ha portato al licenziamento di questo signore che si chiama Stagnati? Cosa, sì, non comunque da parte grava dei comunisti, no, eh, no, da parte, non, sono, non è, no, stato Parenzo a licenziarlo, è stata la società, sì, che però peraltro è una società pubblica, sì, perché mi risulta che la società, sì, che gestisce il trasporto in Lombardia sia una società che afferisce alla regione Lombardia, peraltro, che è governata da un signore che, se non ricordo male, si chiama Roberto detto Bobone Maroni, sì, che, se non ricordo male, Roberto detto Bobone Maroni afferisce al partito del signor Matteo Salvini della fu indipendenza della Padania, quindi per la proprietà transitiva possiamo dire, sì, che Salvini ha licenziato il controllore. No, vabbè, per è la proprietà transitiva, no, una cazzata, questa è evidentemente una cazzata, una mastodontica cazzata, ma la società pubblica dici, è non è un covo di comunisti, no, non è un covo di comunisti, no, è gestita dalla regione Lombardia, sì, però allora, posso dirti una cosa, sì, uno prego, può rimproverare questo tizio per avere espresso delle parole offensive, quello stesso signore senegalese può portare in tribunale il capotreno, ma questo tizio qua solo perché dice negro di merda e solo, sì, perché impazzisce, sì, a un certo punto va licenziato in tronco, questo qua, sì, va licenziato, si vede in che l'azienda ha ritenuto, non lo so, incompatibile, ditemelo voi ma ditemelo, ecco, voi questa idea, ditemelo voi, quando la sua i treni diretta, quando i treni sono ogni voi giorno preda, ecco, e i controllori qua devono difendersi da gente di tutti i tipi, sto dicendo gente di tutti i tipi, gente che non paga il biglietto, gente che imbratta, gente che c'ha i coltelli in mano. Comunque, però se non ci fai la trasmissione. Sentiamo quando questo, sono gli italiani, sentiamo questo Stagnati che contro questo Diatta, questo senegalese. Smettila, Rambo, smettila, Rambo, bello, tranquillo, pronto, mi sta dando la mia carta, sta merando sto coglione, sia tranquillo, sia tranquillo. Lui gli dice mi hai buttato la carta, perché pare che a un certo punto questo esce dal bagno, gli dà la carta e questo qua la butta. Dammi impannare! Non ti do niente finché non mi porta la mia carta! La carta è la carta, la vai a pigliare! Ma mi prendere la mia carta e io ti do col palmare! Hai capito? Prendo un schiaffo! Magnari, però se qualcuno lì ferma, c'è! Ancora molla! Fermate! Molla cosa? La mia carta di credito l'ho dato per prendere la mia, il mio, okay, soldi, l'ha buttato! Perché? Perché devono e farsi vedere che non si paga di là! Eccolo il negro di merda, l'avete sentito? Squillante, chiaro, forte il negro di merda. Sei un negro di merda! Ecco, ma vabbè, lui, questo controllore, allora, può andare, devi dirla chiara, hanno fatto bene a cacciarlo, sì o no? Ma senza ombra di dubbio. Lui era bravissimo, può andare a lavorare nella in Sudafrica. Non nel Sudafrica, quello all'epoca, quello dì, che incarcerava Mandela. Lì in Sudafrica sarebbe stato accolto con tutti gli onori. In Alabama, probabilmente anni fa, in Alabama era un perfetto controllore di biglietti, nell'Alabama, nell'Italia civile, ma devo anche dire nella Lombardia civile, allora, guidata dal signor Bobo allora Maroni della Lega Nord, sì, la società pubblica che gestisce i treni ha ritenuto incompatibile questo tu signore. Tu dici per ritenerlo incompatibile proprio la società che fate però voi governata dalla Lega, ti fate fa, voi, ne fate voi, fate tutti voi. Io mi spingo oltre dicendo che se Maroni è della Lega, che mi risulta, c'è il partito di Salvini, possiamo dire tranquillamente la logica aristotelica direbbe Fusaro ai suoi diritti, Salvini ha indirettamente contribuito a licenziare questo e io sono contento quando la Lega fa delle cose positive. Allora, un altro signore che è sotto attacco in questi giorni, in queste ore, è il sindaco di Como. Allora, il sindaco di Como, caro Parenzo, altro, so che sei altro, molto caldo su questo tema, sei molto caldo. Personaggetto. Posso dirti una cosa che ha fatto molto bene il sindaco, sì, di Como? Perché le anime belle che si stracciano le vesti semplicemente perché un sindaco vuole mettere ordine in una città, vuole dare un po' di decoro e che considera giustamente i barboni, la gente che bivacca, la gente che sporca soprattutto, non tanti barboni in quanto tali, ma la gente che che sporca, che piscia, che imbratta le vie del centro, le vie delle periferie, li considera qualcosa da eliminare, ma non eliminare le persone, eliminare la presenza. E allora un'ordinanza può avere mille difetti, in una città si può fare meglio, certamente, però è sacrosanto quando uno vuole mettere a posto le città. No, lo attaccano di razzismo, lo accusano, no, non puoi andare addirittura a messa il giorno di Natale. Tutto questo perché, certamente è una cazzata fare la multa ai barboni, perché i barboni che cazzo pagano, sono barboni, non riescono nemmeno a pagare. Poi perché semplicemente nel periodo di Natale? Che cazzo c'entra? Esatto. Se c'è il decoro della città da proteggere, questo vale per 365 giorni l'anno. Esatto. Non solamente il Natale, per permettere a quattro rincoglionite con la pelliccia di andare a fare shopping al centro di Como. Questo mi sembra abbastanza evidente. Dunque, se devi fare questa ordinanza, caro sindaco di Como, qui dalla Zanzara viene un appello fortissimo da parte mia. Va benissimo, vai avanti. Va bene il decoro della città, va benissimo. No, avanti. Ma va benissimo, ma tutto l'anno però, non solamente a Natale per permettere di fare lo shopping in città. Tutto l'anno via i barboni dal centro, chi piscia, non tanti i barboni, chi sporca, chi piscia, chi imbratta. Va benissimo, Uber Alles. Però non ti fermare, non ti fare intimidire dai parenti vari, non ti fare intimidire dai sinistri vari, dalle associazioni della minchia che dicono: ah, lo scandalo, il razzismo, non danno da mangiare. Ma che cazzo c'entra quello se non danno da mangiare? Da mangiare ai poveri, ai barboni, alla gente che purtroppo è in difficoltà, non è che lo si dà per strada. Non lo si dà per strada. Le persone vengono ricoverate nei centri disponibili, certo, e poi uno dà da mangiare se lì. Se uno ti chiede da mangiare, lo aiuti. Ma ho capito, strada, ma è tutto un casino poi, capito? Se uno si mette da mangiare per strada, al centro storico di una città, è tutto un bordello. Ma capito che tu non mangi, i ragazzotti che mangiano le robe del fast food, l'hamburger per strada. Non fare finta di non capire. Non mangiano per strada quelli, dai. Ma non fare finta di non capire. E i ragazzotti nostri non buttano per terra i fazzoletti di carta sporchi. Questo qua, come si chiama? Questo landricinesso se la fa sotto. Amico mio, all'attacco! Ecco, non devi tornare indietro. No, non ci sto a passare come il sindaco più cattivo d'Italia. Ma che cazzo ti frega di queste puttanate che ti dicono all'attacco? A me mi stanno sui coglioni quelli che chiedono scusa, che tornano indietro, che ci ripensano. Tranquillità. Ma l'attacco, la trasmissione violenta. Bisogna riportare il paese tranquillo, questo Cruciani che urla ogni giorno all'attacco, squirting, non va bene. E destabilizza. Tranquilli, con calma, pacatezza. Ho capito, però. Non ci sto, e non ci sto neanche adesso a passare per il sindaco cattivo d'Italia. Il sindaco cerca pazientemente, tutti i giorni, con fatica, e in questo caso con dolore, di mettere insieme le istanze di tutti. Non di una parte di tutti. Ma quale tutti? Non si può mettere insieme le istanze. Questa è un'altra puttanata. Mettere d'accordo non si può. A un certo punto uno prende delle decisioni che vanno contro qualcuno a favore di qualcun altro. Ma è normale che sia così. Mettere d'accordo tutti. Ma mi fanno impazzire questo. Pure quelli di centrodestra, i sindaci di Como, che uno dovrebbe essere sì, fuori tutti. E cioè no, mettere d'accordo tutti. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo! Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Albanese, ma io dico no! Ma tu non ti vuoi far sparare, non rubare, vai a fare in culo a lavorare. E poi non ti piace l'Italia? Torna al paese tuo, ma che cazzo ti vuole qua? Molti messaggi contro l'intervento del signore albanese di ieri sera, eh? Molti messaggi, molti messaggi. Benito, risuscita, ti prego. Qua ci sono albanesi che ci danno lezioni di civiltà. Aiuto! Vabbè, adesso Benito risuscita mi sembra un po' eccessivo, caro Parenzo, no? Benito risuscita. Comunque, guarda che è veramente una cosa incredibile. Abbiamo anticipato un anno fa questo fascismo latente. Io per me resta minoritario e folcloristico. Però questo qualcosa covava, no? Qualcosa covava tutti questi nostalgici. Hai scoperchiato i gabinetti. Gabinetti. Ma c'era una realtà che poi è venuta c'era a galla. La metafora credo sia questa: c'era un gabinetto otturato perché tutti continuavano a buttare la carta igienica e continuavano a fare i bisogni. Tu sei arrivato e hai detto: vabbè, bello otturato. Anziché sturarlo, anche buttarlo giù. Hai tirato l'acqua. No, tirato l'acqua, quindi l'avrei eliminato. No, scusa, no, perché l'acqua quando è otturato, quindi non ti è mai capitato, te esonda. E quindi hai continuato a tirare l'acqua. L'acqua usciva. E quindi tutta sta roba è esondato alla fine. Questo è così è andato. Allora, voglio farvi ascoltare quello che ha detto un signore che si chiama Piccardo. Ma non parliamo un attimo del signor Ghizzoni dopo. Parliamo di Ghizzoni. Del caso Etruria. Sì, del caso Etruria, assolutamente. Sì, io sono caldissimo. Ma diciamo solo una cosa caldissimo su questo caso. Diciamola subito, allora. Intanto, per chi la voglia ascoltare, per chi vuole sentire la nostra opinione a riguardo, io ho un'opinione molto semplice. Al di là di quello che è stato detto oggi, la cosa più scandalosa è che ci sia un signore, anche se poi ha dato delle spiegazioni, secondo me, non credibili, ma comunque questa è una mia opinione, che si chiama Carrai. Esatto. E che è uno dei principali finanziatori e raccoglitori di denaro per Renzi, che non c'è niente di male, ovviamente. Signor Carrai, il quale signor Carrai... Bravo. Si è interessato, ha mandato una mail, comunque si è interessato al destino esatto, della banca Etruria, dove lavorava il padre della Boschi e il fratello della Boschi. Questo è il punto fondamentale. Esatto. Si è interessato con Ghizzoni. Ora, a che titolo l'ha fatto? Perché c'è da capire, c'è da immaginare che ci sia qualcuno dietro che gli ha detto di farlo, che sia stata la Boschi, che sia stato Renzi. E comunque non aveva nessun titolo istituzionale per chiamare il capo di Unicredit là. L'altra cosa è che la signora Boschi non doveva nemmeno parlare mai una volta, avendo il padre e il figlio dentro quella banca lì. Il fratello, non doveva mai parlare di quella vicenda con nessuno. Invece lo ha fatto. Ora, il confine tra, che di cui si parla oggi e non me ne frega un cazzo di questo argomento, tra la pressione e l'interesse a aver manifestato è ridicolo. Quando tu sei ministro e chiami una persona, già di per sé significa qualcosa. Non dico che sia certo pressione, ma insomma però, ci si avvicina però, abbastanza. Esatto, si avvicina esatto. Perfetto, condivido. Enrico da Verona, vai Enrico, no, di che volevo parlare? Di Piccardo, aspetta Enrico, arrivo subito, Piccardo, il quale dice che è un esponente, giovane esponente islamico, anche divertente, simpatico, e mi confronto sempre molto volentieri con il signor Piccardo. È un antisionista. Vabbè, antisionista saranno cazzi suoi se antisionista. Sì, no, lo dico semplicemente che è un antisionista dichiarato. Allora, figlio di Israele, insomma, dice questo signor Piccardo, se non sbaglio, che sarà difficile ghettizzare gli islamici. Donato, ascolta bene, siamo 30 milioni in Europa. Ovviamente, che cosa dice questo Piccardo? È contro l'assoluzione di Belpietro, che sono stati quelli che hanno denunciato Belpietro per il titolo bastardi islamici. Certo, certo. Ghettizzazione, dice, perché poi difficile ghettizzarti, siamo 30 milioni in Europa. Difficile. Un esponente della comunità ebraica che ebbe a dire, dice, voi a noi ci avete trattato in questa maniera, adesso vorreste trattare in quella stessa maniera anche i musulmani, ma loro non si lasceranno fare. Enrico da Verona, vai. Eccoci, ciao Giuseppe. Ascolta, mi lasci un attimo Parenzo per un minuto. Ma quante minchiate, ma Parenzo, ma porta pazienza. Intanto io voglio offrire 350 euro a Nicchini, perché questo è un cristiano. No, ma aspetta, scusa, no, Enrico, intanto non si sente bene, per cui parla meglio. Adesso non voglio insistere su questo argomento, ma qua bisogna parlare bene, bisogna che si senta bene, altrimenti è inutile. Vai, perfetto, Enrico. Mi senti bene ora. Allora, questo così, qui così, si chiama vai. Enrico e chiama da Verona, ho capito sì bene? Bravissimo. Bene. Sì, che cosa vuoi dare dei soldi a Donichini, al certo, macellaio? Assolutamente sì. Bene, glieli dia. 350 euro, ma sì, Parenzo. Sì, ottimo, voglio vedere. A Padova, benissimo, ok. Nella tua religione, l'ebraismo, che è quella che precede la mia, il cattolicesimo, c'è scritto occhio per occhio e dente per dente. Ecco la stupidaggine. Io non so dove cazzo. Occhio paga occhio, dente paga dente. Nella Torah c'è insito il risarcimento del danno. Non vuol dire togliere l'occhio. Ragazzi, non parliamo di Bibbia. Somaro, non vuol dire togliere l'occhio. L'occhio paga, risarcisce. Che tu continui a dire di quelli sproloqui. No, a chi non sa di... Mi permetto... Scusi, allora hai fatto una citazione sbagliata. Ragazzi, non me ne frega una mano. Enrico, che cosa vuoi dire? Dimmi. Allora Giuseppe, voglio dire che Onichini va aiutato e mi dispiace. Sono d'accordo questo, con te. Questo d'accordo. Dei coglioni, ma gli tiriamo fuori questi 25.000 euro, sai? Perché io bene, che abito ottimo, a se lo fate. Bene, dove cazzo stiamo andando? Dove e stiamo non andando? È una deriva così, sai, a livello solo dove stiamo andando? Dove stiamo andando, scusami. Stiamo, dove stiamo andando verso un qualcosa che non si sa di che dimensioni sarà. Ma che cosa? L'immigrazione, stai dicendo? L'immigrazione. Ma non è l'immigrazione, ma sono cazzate queste. E che cosa mi allora? Duetto, stiamo andando, so dove stiamo andando. Dove stiamo andando? Tu dove dici, so dove stiamo andando. Verso la tutela di chi viene in casa tua, Giuseppe, e ti stupra la moglie e i figli. Ma perché? Ma non è la tutela, non c'è la tutela di questa, è che questi qua, è che il vero scandalo di questa il vero scandalo di questa vicenda è il fatto che questo qua è libero adesso, aveva 6 provvedimenti di espulsione, non sono stati rispettati, bisognava firmare un mandato di arresto per questo qua e non è stato firmato e questo è potuto scappare, questa è l'Italia, questo è lo scandalo, dai su, Dino da Firenze, vai, Dino. Buonasera Tuzzani. Dimmi. Dai. Volevo intervenire sul fatto del capostazione licenziato. Sì, Treno tutti i giorni, 26 giorni al mese, e faccio la tratta Empoli-Firenze. Non ti dico cosa c'è in quei treni, specialmente la sera. Ragazze che vengono a chiedere il biglietto derise da mandrie di africani puzzolenti, perché questo sono, e non sono razzista, e non mi dite... Non ho capito, ragazze derise, che vuol dire ragazze derise? Non ho capito. No, arriva la ragazza che è capotreno, mettono a ridere, nulla cagano nemmeno. Solo una ci ho visto una volta con le palle, con il fischietto che diceva di chi era la bicicletta. Cioè tu dici che dunque quel capotreno era esasperato, era certamente esasperato. Nessuno si è voltato, lei sa cosa ha fatto? È arrivata alla fermata, ha aperto le porte, ha preso la bicicletta e gliela ha buttata giù dal treno. Perché loro non possono nemmeno portare. Ma io capisco l'esasperazione in alcune situazioni. Se lei va in un treno di ultras e chiede il biglietto, riceverà trattamenti ben peggiori. No, per dire che la maleducazione puzzolenti. Così tra l'altro non sappiamo che odore abbia questo qui che chiama, quindi voglio dire. Fermi là. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Bella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Non ce l'hai. In diretta sono. Qua giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 00240024 oppure se volete mandare uno sfaccimi i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo, sei un pezzo di merda, vuoi gli immigrati in Val Brembana, in Abruzzo, Ariace, ma non al quartiere Prati dove vivi te, testa di cazzo. Parenzo, sei talmente tanto un leccaculo che secondo me tu al posto della lingua ormai hai una protesi. Crociani, io viaggio con il camion in tutta Europa e in gabina tengo pure la testa del Duce. Grande Duce, italiani! Inariani! Ascolta, che tu ti sei allontanato. A me non me ne frega un cazzo. C'è tensione, tradimento. Che cosa, mio nipote? Cruciani, sono un musulmano moderatissimissimo. Che mangio la carne di maiale, bevo il vino, mi piace la gnocca, soprattutto quella romagnola dove abito, vivo da occidentale, sono più italiano degli italiani e sono contro Ius Soli, anche se sono cittadino italiano, uno per prendere la cittadinanza lo deve soffrire, non a regalarla. La cittadinanza a tutti i cani e porci che entrano in Italia. Lo devono guadagnare, lo devono meritare come me. È da 18 anni qua che non mi dà fastidio né la croce, né l'albero di Natale, né la presepe, né niente. Hai capito, Cruciani? Perciò fuori tutti dall'Italia, una Italia pulita come si deve. E vaffanculo David Parenzo, coglione. Il signor musulmano, questo, il signor questo musulmano dimostra appunto che alla fine gli immigrati in Italia che prendono la cittadinanza votano per la destra, ma questo voglio dire non mi stupisce. Allora, dove andiamo? Franco dalla provincia di Torino. Franco, vai. Buonasera Cruciani, ci eravamo sentiti un anno fa circa, sempre non lo so, per il non me lo ricordo. Sì, no, le spiego, sono quel capotreno della regionale, sì. Dove adesso ho visto che avete aperto con il problema di quel capotreno che per carità ha sbagliato, non si deve, però le assicuro dopo 10 ore o 24 ore, perché parti la mattina, a mezzogiorno del giorno prima e finisci il mezzogiorno del giorno dopo, di vessazioni, umiliazioni, aggressioni. Io ho subito 5-6 aggressioni, l'ultima non mi sono messo neanche in infortunio, perché abbiamo un po' tutti contro, e mi creda Parenzo, io non sono razzista, mi creda. Io allora se lei mi chiede una constatazione, su 100 ragazzi di colore sono senza biglietto, sì, perché purtroppo non hanno lavoro, ma abbiamo anche molti italiani così, ma noi abbiamo un problema di gestire queste situazioni qua, perché noi abbiamo sul treno persone che hanno il biglietto e pretendono così teoricamente, perché poi quando ti impunti, come succede, e rischi di tuo, perché hai tutti contro, no, ma, Marco, sì, Marco, Franco, tu hai perfettamente ragione, cioè il punto fondamentale è che questo signore qua è andato in escandescenza, su questo non c'è dubbio, cioè questo capotreno avrà sbagliato nei modi, nei termini, non sappiamo quello che è successo prima, non sappiamo quello che è successo durante, ci sono versioni discordanti, ma arrivare al licenziamento, no, come pretende Parenzo, di un capotreno, semplicemente guardate che lo ha fatto mica lo ha fatto Parenzo, questo lo ha fatto la società, sì, vero, che si occupa ragione del trasporto lombardo, ma grazie a cazzo, non bisogna sopportare queste cose qua, non gestita, bisogna sopportare queste cose qua, i cui vertici sono nominati dalla Lega, quindi cosa volete da me? No, io non ce l'ho con lei Parenzo, io dico che sicuramente c'è l'esasperazione di chi lavora sui treni, i controllori, i personali, non devono arrivare a questo punto, devono invece supportare queste persone. Io tra un po' vado via e sono contento di farlo, ma quando quel signore lì ha detto le ragazzine, io ho paura. No, lo sai che ti dico, che secondo me, Franco, quelli che stanno di notte sui treni, ma in generale i capitreno dei treni considerati più sensibili dovrebbero essere armati. Te lo dico io. Armati. Devo offrire un servizio, devo armare i capitreno. Oppure, se non sono armati i capitreno, quelli che nei treni più sensibili, oppure essere accompagnati da una presenza fissa delle forze dell'ordine. Esatto. Fissa delle forze. Non mi sembra che ci siano problemi da questo punto di vista. Però mi creda, Cruciani, scusi se la interrompo. Io a volte, pur avendo la polizia sul treno, evito, preferisco fare io la figura di M che farla fare a questo, perché è frustrante. Ma che succede con gli immigrati che sono arroganti, come ha detto quello di prima, che sono... Allora, mi creda, io ho più problemi con i nostrani, gli italiani, perché noi siamo dei gran maleducati, mi perdoni. Io parlo, gli extracomunitari, la maggior parte che tu dici bene, mi dispiace, non hai documento, non hai nulla, scendi, la maggior parte, mi creda, scende. Alcuni hanno capito che possono superare l'asticella, che intanto non le succede nulla, e allora scatta l'arroganza. Lei l'altra volta, le ricordo, quando io dissi equità fiscale, lei sorrise e disse, ma cosa vuol dire? Mica sei un agente della finanza. Equità fiscale vuol dire, signor Cruciani, che quando io entro in una carrozza e ci sono 100 neri e c'è un bianco, io devo chiedere al bianco, perché guai se chiedessi prima a un ragazzo di colore, guai. E che c'entra? Che uno chiede a chi capita, No, iniziamo male, perché succede un finimondo, perché poi c'è il rovescio della medaglia. Le persone va che bene, hanno... Roberto da Vicenza, ciao Roberto da Vicenza. Ciao. Dimmi Roberto, dimmi. Ascoltami, io sono un pendolare e faccio anch'io su e giù con il treno. Sì. Volevo ricordare a Parenzo che il controllore è un pubblico ufficiale nell'esercizio della funzione. Quindi non è che devo chiamare la polizia, sarebbe la coerenza delle persone di rispettare questa figura e comportarsi di conseguenza. Dopo dunque, che il controllore in questione ha sbagliato offendendo l'immigrato. Sì, ma se quello si sente offeso, fa causa al capotreno. Ma non è che si sente, mi sembra che anche i passeggeri vicino abbiamo sentito le voci. Alcuni che passeggeri erano basta, stupidi di questo comportamento. Ma cacciare insomma, uno, ma come, cacciare come, uno come... perché semplicemente perché indossa una cosa che non è una divisa, sì, d'accordo, del Trenord, ma semplicemente perché dà in escandescenze con un. Certo. Verso uno che non ha un biglietto, perché non aveva il biglietto, mi sembra una follia cacciare quello là. Marco da Como, sì. Dai Marco. Sì, pronto, io volevo solo parlare sul discorso del sindaco di Como. Allora, volevo chiarire che prima di tutto l'ordinanza non divieta di dare cibo ai... Sì, però è successo, credo, ieri mattino. No, è diversa la cosa. È successo, c'è stato un equivoco, d'accordo, l'abbiamo. Adesso non andiamo, non è questo il punto. Qual è, di che stai parlando allora? Di che vuoi parlare? No, appunto, allora, quindi... Nell'ordinanza non è previsto di non dare il cibo a quelli ai senza tetto, su questo non c'è dubbio. Non c'è stato nessun blocco, quindi non è stato fatto nessun rilievo a queste persone che volevano dare cibo, e quindi non c'è assolutamente nessuna... Sì, ma multare i barboni, multare i senza tetto, allora, multare quelli che senso ha? Tanto quelli possono pagare, ma non sarà stata emessa, però l'obiettivo... Ma che vuol dire che non è stata emessa? Allora, si tratta di... Ma tu che fai, il difensore del sindaco? Che sei, il difensore del sindaco? Che sei, il consigliere comunale? Io sono un amico del sindaco. No, ma per carità, va benissimo, io l'ho difeso anche da un certo punto di vista. Quindi mi dispiace quando viene chiamato sindacuccio una persona che fino a quando è stato eletto sindaco. Sì, però va benissimo, Marco. Ma lasciamo perdere i giudizi sul sindaco. Tu sei suo amico, dunque sicuramente hai un giudizio positivo. Prima Parenzo che lo chiamava sindacuccio, insomma. Sì, ecco, sindacuccio, sindacchetto, sindacello. Marco, il punto è questo: multare i barboni, multare i senza tetto, multare chi imbratta, chi bivacca, è ridicolo, perché non si ottiene nulla. Certamente. I soldi questi non ce li hanno per pagare le multe. L'altra cosa, perché uno deve avere come obiettivo il decoro della città fino al termine delle feste di Natale? Uno facesse l'ordinanza per tutto l'anno. Posso spiegare come è stato spiegato oggi. Ma non me ne frega niente, quello voglio pensare, voglio dire quello che pensi te, voglio sapere, non quello che è stato. Lo penso in questo modo. Allora, a Como, non so se voi siete stati in questo periodo sotto Natale, soprattutto al sabato e la domenica c'è il finimondo. Vabbè, lo sappiamo. Allora, Allora, in questa fase è stata creata una ordinanza temporanea. Ma è una cazzata, il decoro della città ci deve essere sempre. Cioè, se tu vuoi colpire quelli che bivaccano, lo fai sempre. Scusate, voglio dire un'altra cosa. A tutte queste persone è stato offerto un posto coperto per stare a dormire di notte. Sì. Non l'hanno accettato. Ah sì, perché vogliono prendere i soldi dalla gente che passa per il centro, mi pare evidente, no? Ma ci sono anche i senza tetto che hanno come scelta quella di vivere all'aperto. Fermo lì, ho capito. Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi racconti. Comunista di merda? Ma non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Soltanto per imparare a camminare. Se non ci sei tu, comunista di merda. Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Scusatemi, ma Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, alla fine, dopo che l'hanno arrestato, dopo che l'hanno messo dentro e tutto, teneva dei corsi e dei seminari sulle vendite. Ma che cazzo dite? La Marchi fa benissimo a farla insegnare, faceva quello di mestiere ed era brava a vendere. Certo, a sentir Parenzo non ci si stupisce poi che certi movimenti politici a cui li fare riferimento perdano consensi a livelli pazzeschi. No, io vorrei capire una cosa, Parenzo, cioè i Rom e comunque gli zingari e chiunque delinque depredando gente indifesa nelle proprie case ha bisogno di una seconda scelta e la Vanna Marchi no? Certo, Parenzo, sei proprio un coglione, ma cioè io veramente. Sei proprio un coglione. Ma perché non tu mi chiami? Chiamami una sera in diretta. Almeno si parla un po' io e te, di quanto sei coglione. Eccolo qua, arrivato, beccato sul fatto, caro Parenzo. La giustizia non ha fatto il suo corso con le Marchi. Tu non sei quello che predica che la giustizia deve fare il suo corso. Hanno fatto 9 anni di carcere, quello che hanno fatto, adesso sono riabilitate, cosa rompi i coglioni? Comunque ragazzi, questi ascoltatori hanno ragione, Hanno ragione, tu sei sempre per il perdono. Ma certo, sei sempre per il perdono con le Marchi, con le Marchi. Ma io ho detto qualcosa, loro facciano quello che vogliono, hanno un'impresa che mi pare sia un bar, un caffè, una gelateria, non, cioè, tu dici non lo so. Non devono andare più in televisione. Però se qualcuno le invita addirittura a tenere un corso pagate di tecniche di vendita, io ricordo semplicemente che dicono che non lo devono fare. Dico che potere ho per dire che non lo devono fare? Ricordo semplicemente che le signore hanno creato danni a persone deboli alle quali chiedevano soldi e che minacciavano. Questo è quello che c'è nell'inchiesta di persone condannate. Quindi loro vengono chiamate a insegnare non come si vende, ma in quel caso è come si truffa, perché non stavano semplicemente vendendo. Vendendo. Erano persone in difficoltà quelle che telefonavano. Ma se un'azienda privata le vuole assumere io per insegnare come si vende, la contraddizione a poi l'azienda decide liberamente, ma chi sono io per poter impiegare esprimo un parere. Mi sembra assolutamente assurdo che queste persone siano ancora in giro a provare a raccontare come si vende. Io direi come si truffa, ragazzi, in quel caso, la colpa come si però vende. È di quel tizio là che se l'è fatta sotto il titolare di quella scuola. Ma perché è ovvio, hanno pagato e quindi hanno diritto ad avere una vita tranquilla, felice. Ma chi dice niente? Certo, ricordo la vita infelice che hanno reso a tante persone che sono state vittime loro. Ma questo si può ancora fare in questo paese, no? Allora, mi scrivono: ciao, un anno e mezzo che non faccio sesso e devo dire che non mi manca. Tu che dici? Lavati per Natale. Ciao. Uno risponde: chi sei? Una donna. Beh, amica mia, un anno e mezzo. Io conosco persone anche da più anni che non fanno sesso, per carità. Però un anno e mezzo mi sembra francamente un po' troppo. E devo dire che non mi manca. Credo le Iene abbiano fatto un servizio sugli asessuati, ne abbiamo parlato. Ma ragazzi, è una patologia questa roba qua. Cioè, se da un anno e mezzo non trombi, ma c'è qualcosa che non torna nel cervello. Un anno e mezzo, amica mia, dai. Allora, ho trovato geniale Adinolfi, dove sei? Ti voglio scatenato. Scatenati, Adinolfi. Integralisti cattolici, dove siete? Ti faccio sentire questo spot di una casa automobilistica. Possiamo anche dire la Renosti, cazzi, tanto. Ah, l'ho visto, molto divertente. Mamma mia, un puro molto, genio. Molto puro, divertente. Meraviglioso. Senti, praticamente c'è una donna in macchina, una coppia ma in macchina. Si deve vedere. No, non ma sì, non si deve vedere. C'è una coppia in macchina, lei che è incinta, sono due gemelli, e dice, alla fine dice, è tuo fratello che mi ha messo incinta. Lui la guarda e dice: sono gay. Stupendo, divertentissimo. Lo sai che secondo me questi qua restano pure insieme? Fosse vera questa situazione, secondo me restano pure insieme. Sono gemelli. Non sono tuoi. Non sono tuoi. No. Di tuo fratello. Sono gay. Allora, questa stessa ragazza che mi ha detto che non fa sesso da un anno e mezzo mi risponde ancora: mi masturbo regolarmente. Vabbè, ma noi questa cosa qui però ma è interessante, l'astinenza sessuale è una cosa interessante invece. Tutto ricade dentro la cappella, il timbro della astinenza sessuale. Gaetano dalla provincia di Foggia, vai. Buonasera. Buonasera Gaetano. Senta, volevo intervenire per quanto riguarda andare a prostitute. E come no, siamo qui. Però siamo prima pronti. Ascoltando mi veniva una cosa veloce sulle Marchi e Parenzo. Cioè? Un paio di sere fa Beccaria dei delitti e delle pene. E con le Marche? E con le Marchi, giustamente, ma dice Marchi, Caetano, state... dalla provincia di Foggia, e con le Marchi, questo è il mondo al contrario. Con le Marchi, le Marchi hanno, sono state in galera, hanno pagato per quello che hanno fatto, benissimo. La mia unica obiezione, non devo ripeterlo ancora, è che mi fa specie l'idea di poterle vedere raccontare e spiegare come non tanto si vendono le cose, ma nella loro storia come si truffano le persone. Ho capito, ma sapranno tutto pure qua, vendere, no? Tutto avranno qua. Fatto... Dopodiché, sentite, volete assumere le Marchi? Fatelo. Tutti voi che telefonate, ma assumete le Marchi, ma chi se ne frega, fatelo però, anziché rompere le balle a me. Adesso sembra che il problema sia io, Gaetano, ma non ho allora capito. Dimmi, andate a vedere cosa hanno fatto. Ma scusa, non protesti con Toni Negri? Con Toni Negri, Toni Negri con è uno ex, dei più grandi intellettuali italiani. E con ex terroristi, e con ma ex terroristi che è uno dei più grandi ovunque. Ex terrorista, ma cosa dici? Ma uno dei più grandi dico, intellettuali dai, italiani, su. È uno dei più grandi dai, intellettuali, insegna nell'università americana, ha scritto un libro straordinario che si chiama Impero, ma che Gaetano, stai scherzando? Vergognati, Gaetano della provincia di Foggia. Un professore di scienza della politica, filosofia sì, del diritto, uno dei più grandi studiosi di Spinoza, Toni Negri, ma che mi scherziamo? Scrive, un altro mi scrive, io per 12 anni non ho trombato. Vabbè, d'accordo, amico mio, però come si fa so adesso a interrompere una conversazione su Toni Negri con questa qui? È incredibile. Gaetano, allora? Comunque, vabbè, per quanto riguarda l'andare a prostitute, Gaetano, sì, ecco, sì, il tema che ti si confà di più. Forza. A volte sostiene che chi va a prostitute non è capace di andare con le donne normali. È un miserabile, no? Certamente lo sostengo da più tempo, volte ormai, sì, da tempo so, in memore. E allora, Gaetano, tu vai, tu vai a puttane, Gaetano? Io ci vado quando è possibile. In che senso quando è possibile? Quando la moglie non c'è, evidentemente. A volte lo faccio semplicemente perché andando là so cosa vado a fare. La donna che c'hai di fronte lo sa? Perché dovrei andare da una ragazza normale, imbastire un rapporto, magari stare a sentire quello che dice e non me ne frega niente solo perché voglio fare sesso? Gaetano, tu come sei di aspetto, diciamo? Sei di aspetto gradevole oppure sei, che ne so, obeso, con la pancia, pelato, col pisello? Senti, adesso sono con la pancia, però fino a 3-4 anni fa ero normale. Cioè, adesso, vuol dire, le donne ti respingono, è per quello che vai a puttane, sì o no? Ma io ci andavo anche prima, diciamo. Quindi è un'attività costante. Ecco, la frequentazione delle prostitute, credo, dalle zone di Foggia, in quelle zone lì. È appunto, ma com'è esattamente? Cioè, dove le vai a pizzicare? Internet per strada? Extracomunitari? Per strada sono da evitare perché se no c'ha ragione Parenzo. In genere sono sfruttate. Oh, meno male. Meno vabbè, un po' ma di te decenza. Che cazzo te ne frega? Vabbè, forse si pone il problema. Vabbè, è diverso rispetto. Ci sono delle signore, sì, italiane che straniere, che una volta che le conosci sì. Diventano fisse, paghi il doppio, due, tre volte di più diventano fisse praticamente, no? Cioè diventano delle puttane abituali in genere, diventa quasi, diciamo, sì, se c'è un buon rapporto, se si crea anche una specie di legame, un'amicizia, ti prendono in giro bene, sì, perché ci parli a volte magari non ci fai neanche sesso, stai là 10 minuti. Tu qualche volta paghi per non fare sesso, è successo? Diciamo più che per non fare sesso, poi per uscire fuori con una manicata. Che vuol dire una manicata? Tipo le cinesine, va. Ah, ho capito, una manicata, cioè una masturbazione, una pippa. Abbiamo capito, d'accordo. Ma come mai ti accontenti di così poco? Senti, perché poi a volte l'importante è venire. Sì, vabbè, quello d'accordo, quello della vita, arrivare da qualche parte, avere un obiettivo, Parenzo, no? Ecco, in quel senso, allargare, infatti, sì, quello certo. Anch'io dicevo, sì. Sì, l'importante è il risultato finale, arrivare ad un obiettivo finale. Caro Gaetano, te saluto, comunque la tua storia la approfondiremo. Oh, vedo che stanno lanciando una nuova petizione, molto bene, che condivido, Cruciani assumi Vanna Marchi. Allora, dopo Cruciani, dopo Parenzo assumi... è giusto, guarda, molto bene. Se Vanna Marchi potesse venire qua una volta a settimana lo farei tranquillamente, lo sai benissimo, non è così peregrino. No, assumila proprio a casa. Anche a sua, a casa, perché quella fa le vendite, è esperta di queste cose. Casa. Ma non fa mettiti mica, non casa, è come Sabaeta. Vanna Marchi anche la gentile figlia. No, tutti e due a casa tua. Dai, fermi tutti, due. Fermi. Allora, a A questo proposito, caro David, io proverei a fare, guarda, finirà male, sono sicuro, perché lei ti odia. Una telefonatina alla signora Stefania Nobile. Ma perché dobbiamo chiamarla? Perché lei non ti sopporta. Perché sì, voglio capire che è successo. Prima assunte per fare le venditrici, come a insegnare la vendita. Poi questo qui si è tirato indietro appena ha visto che è scoppiato il caso. Chiamiamola Nobile, dai. Pronto? Stefania? Sì, chi parla? Sono Giuseppe, ciao. Oh, ciao. Ciao, ciao. Allora, Parenzo ti deve chiedere scusa, secondo me. Perché? David ti deve chiedere umilmente scusa. No, non è scusa. Ti deve chiedere umilmente scusa. Allora, David, chiedi... Me lo auguro. Allora, David, chiedi... Chiedo scusa di niente? Di che cosa devo chiedere scusa? Scusa. Ma scusa, non ho capito. Ah, tu difendi. Sei perdonista con 90% degli imputati, ma non sei tu sul banco degli imputati. Sul 90% nel 90% dei casi tu sei perdonista. Sei uno che dice che ci vuole il recupero delle persone che sono state in carcere. Quando si tratta, chissà perché, delle Marchi, cioè di Stefania Nobile e della madre, tu invece improvvisamente dici che non possono lavorare. Ma è una cosa assurda. Hanno un bar, un caffè, una gelateria. Ma perché non possono fare un corso? Ma che cosa ti interessa? Allora, senti, ti dico io una cosa e dimmi, poi ti saluto. Dimmi. Quando lui vuole, vis-à-vis, parliamo. Ma che c'entra vis-à-vis? Perché vis-à-vis. Mi deve spiegare due cose. Cosa? Una, sì, perché mi invitava 100 volte quando aveva quel programma. Aspetta. La telereporter, Telelombardia. Certo, ti ho invitato a parlare del processo, certo. Sì, ovvio. Bene. Come tanti colleghi lo hanno fatto. Questo, ovvio. Perché questo me lo chiede anche il mio avvocato. Fatti spiegare semplice. Da dove nasce il tuo odio. Eri un caso giudiziario. No, odio nei confronti di nessuno io. Perché tu sei uno di quelli che si batte per l'odio razziale, giusto? Contro l'odio razziale, certo. Contro l'odio razziale. Certo, e tu sei certo. Primo? Allora, secondo te, e ti saluto perché così sto facendo il tuo gioco. Ma no, Stefania, che c'entra? No, Giuseppe mi ha detto che tu mi devi chiedere scusa. Secondo me devi chiedere scusa. Ma perché cosa? Non ho perché capito che cosa devo chiedere scusa, ragazzi. Perché tu vuoi impedire a due persone di non lavorare? Non voglio impedire niente. Perché l'altra sera, quando hai visto che c'eravamo, sei scappato? Ma intanto non sono scappato per niente, perché se mi avessero invitato al dibattito mi sarei fermato a dirvi quello che vi dico ogni giorno alla radio quando bene, ci confrontiamo. Allora, quindi il mio giudizio morale non cambia. Se vuoi mi confronto, il giudizio morale non cambia. Ma io devo chiedere scusa. Ma ragazzi, ma il mondo è il contrario. E vaffanculo. Aspetta, scusa, ma qua cambia Stefania, il punto di vista. Stefania, però. Scusa un attimo. Cioè, adesso Stefania. Sono io sul banco degli imputati. Ma guarda che e mi manda pure a fare il culo, a me. Sono io adesso. Ma ragazzi, ma questa è la trasmissione del mondo storto. È un romanzo, il famoso romanzo del mondo storto, dove tutto è al contrario. Il cielo, anziché essere sopra, è sotto. Ma è una cosa incredibile proprio. Il mondo è al contrario, sto mostro. Adesso richiamiamola però, sarà pure il mondo al contrario come dici tu, ma richiamiamola. Ma ogni volta ti fare mandare ti rendi conto? Cioè ti ha mandato a fare in culo la Nobile. Siete incredibili, siete. Aspetta. Stefano, pronto? Sì, Giuseppe, non mi va di parlare. Tanto lui è uguale, lui è merda uguale. Ma io non ho capito una cosa, scusami. Niente, allora, voglio capire perché dovrei essere io in colpa, ma non ho capito. Ma perché? Che modo di fare? No, il problema è questo, non capisco. Perché io vi ascolto. Giuseppe, quando vuoi parlare con me, mi chiami. Però dal tuo cellulare. Questione fondamentale è questa. Perché Parenzo, che è perdonista... Allora, facciamo così, sennò non ci parliamo con la signora Nobile, che già ti ha dato della merda. Già ti ha dato della merda. Sì, ma può dare quello che vuole. Il giudizio su quello che hanno fatto lo hanno dato i giudici. In terzo grado, fammi parlare da solo. Le famiglie delle persone truffate. Quindi non sono io a dare un giudizio. Parla quello che vuoi, ma il giudizio sulle signore l'hanno dato i tribunali da una parte. Mi fai e dall'altra le famiglie mi delle fai persone parlare rovinate. Da solo. Allora stai zitto un attimo, fammi parlare da solo. Adesso richiamiamo, dai, per la terza volta. Vediamo se... Portatele alla cena di Natale a ma casa che in Umbria. Ma che portatele vuol dire? Nella villa, nel castello in Umbria. Ma cosa c'entra, coglione? Mi fai fare la tombola il mercante in fiera la sera di Natale. Le carte da tardo! Dici, siete ospiti, cosa volete da me? Vi offriamo il mercante in fiera a 2.000 euro. Dice, guarda, questa qui è una cena tra amici, non c'è. Portala, portala a fare. Ecco, questo glielo farei fare, il mercante in fiera. Porta a fare il mercante in fiera la tua cena di Natale in Umbria, in quel castello che hai a Filicudini, come si chiama? A Ficullo, Ficullo, non so neanche come si chiama. Fermo. Pronto? Parlo solo io. Sì, ma Giuseppe, non ho capito. Parlo solo io, parlo solo io, parlo solo io. Allora, io voglio capire come va a finire questa storia del lavoro. Cioè, questi qua hanno detto che non vi fanno più lavorare per questo corso. Voi a che noi cosa? Non hanno detto assolutamente niente. Ah, per cui non vi hanno questa comunicato nulla. Bella. Lo hanno comunicato, niente. Lo hanno comunicato solo, diciamo, sì, alla stampa, sì, a chi li ha chiamati, eccetera. Sì. Ma voi avevate già firmato un contratto? Noi abbiamo tutto, ma sta pensando l'avvocato. Io non ho intenzione di parlare. No, però l'avete firmato un contratto, cioè un accordo, questo lo puoi dire. Certo. Ma allora, insomma, possibile mai che questo qua, semplicemente perché esce fuori la notizia, prima vi ingaggia e poi se la fa sotto? Scusa, la colpa è di questo qua o no? Allora, Giuseppe, la colpa è vostra, giornalisti maledetti. Ma io perché? Dico vostra, ma perché? In generale, ma noi che c'entriamo? Giuseppe. Ma noi siamo. Ma noi allora, siamo. Io non dico te, Giuseppe, o l'altro, sì, che ho capito di fianco, che dici, o tutti gli altri, ma io dico che nella vita, vedi, una colpa non si pagherà mai, Giuseppe, mai. Non basta aver sbagliato, aver affrontato un processo, 17 anni, il carcere, le umiliazioni, il perdere tutto. No, voi volete che noi moriamo. Ma non è vero. Ma questo noi non qua. Moriamo, noi non moriamo. Stefania. È questo che sta sul cazzo a quelli come Parenzo. L'altro giorno io ti ho sentito, mi è venuto da stare male quando diceva si è aperto il palcoscenico e le ho viste belle e vestite, cosa ci voleva dire? Però scusami, cioè, Stefania, ma quello tu sei abituata allo spettacolo, siete donne di spettacolo, noi facciamo la radio, non è che facciamo il coso, non è che facciamo un giorno in pretura, che vuol dire? No, voi siete peggio di un giorno in pretura. Io sono dalla parte di chi ha pagato e vuole ricominciare a vivere, per cui tu puoi fare tutti i lavori che vuoi, puoi fare tutti i lavori che vuoi, potete fare tutti i lavori che volete. Mia madre, per quanto voi la vogliate demolire, è stata, è e rimane la più grande venditrice, nonostante non venderà più, perché una volta tu mi feci una domanda, mi facesti una domanda, sì, e io ti giurai che mia madre non avrebbe mai più venduto niente. No, ma quello l'hai già detto, lo hai detto anche a Giletti. L'hai detto anche, sì, a Giletti. No, ma non credere che non glielo chiedano, perché a mia madre. Però è in grado di insegnare come si vende. Cosa, è in grado di insegnare. Ma è in grado di insegnare, perché vendere è un'arte, ragazzi. Ho capito, è un'arte. Però se magari va in televisione e vende un Rolex al prezzo di una nocciolina, gli sputano in faccia. Ho capito, però nella vendita ha anche commesso dei reati vendendo, per cui uno può dire anche che cosa ha da insegnare quando uno vendendo ha commesso anche dei reati, capisci? Allora, i reati che ha commesso li ha pagati, lei ma ha venduto, certo, per 40 anni, sì, sono sufficienti? Ma io sono d'accordo, però il colpevole non è la stampa e i giornalisti maledetti, il colpevole è quel tizio là che prima ti assume perché pensa che siete le migliori, vi assume tra virgolette e poi si tira indietro per quattro cazzate che sono uscite. Pagherà le sue conseguenze, ci pensa l'avvocato Liborio Catagliotti, che è il mio avvocato nonché il mio migliore amico. A me non interessa, io l'ho dimenticato. Allora, Parenzo, io non ho capito, vuoi dire due cose a Stefania? No, parlare con David? No. Non vuoi parlare, no, con David? Io dico solo che ho espresso la mia opinione e ho detto che secondo me loro possono fare tutte le cose del mondo che vogliono, ma secondo me l'idea che si rimettano a insegnare come si vende avendo truffato, ma è una cosa privata, degli anziani, delle persone quindi deboli, quindi tu lo fai continuare, io ti rimetto giù, vabbè, d'accordo, però Stefano non sta dicendo nulla, però sta ribadendo la sua idea, Giuseppe, mi stupisco di te, guarda, vabbè. Io tutte le volte, ma io che cosa ti devo fare? Ma io ti ho detto come la penso, Stefano, ma più di questo che devo fare io? Ma io lo so, ma voi fate come la destra e la ma non comunque, fingiamo fate... noi, non fingiamo. Giuseppe, allora, fatevene una ragione, Vanamarchi è viva, la ma certo, ma benissimo, viva. Ma nessuno non vuole la morte di nessuno, abbiamo intenzione di morire. Benissimo, abbiamo intenzione ottimo di lavorare. Eravate altrimenti voi che minacciavate di morte quelle persone che compravano quel cazzo di sale. Ma io voglio tutti vivi, figuriamoci. Vai a cagare. No, io ti ho David, scusami signora, scusami, ho detto che nelle sorella, voi dai, eravate quelle che minacciavate di morte. Giuseppe, basta cazzo! A Allora, voi... Ma sei un uomo, sei una testa di cazzo più di lui. Ma io che c'entro, scusa, adesso... E allora basta! E allora, ma che devo fare? Ma io che devo fare? Scusi, ma il mondo è il mondo al contrario. Ma vuoi che io ti dica tutte le cose che scrivono di lui? Ma che c'entra questo? Ma pensi che lui sia amato? Se sono vere, querelo io. Se non sono vere, querelo io. Mi fece fare un confermo che era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trance, David sta andando a trance, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trance, David sta andando a trance, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Etherball. Ah, e vabbè, vanno a trance, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... La Zanzara. Sanchero, ehi, Buscetta, ti ho sentito. Ciao, Parenzo, Buscetta dei poveri, non mi riconosci. Naturalmente. Volevo dire a Parenzo che sì, gli All You Can Eat sono dei posti da barboni e sono una poverata pazzesca, come si suol dire, ma forse lui non tiene conto di una cosa, che chi come me ha uno stipendio di 1200 euro al mese non può spendere un terzo dello stipendio, 300-400 euro, per mangiarsi due tartine di merda da Nobu come fanno gli snob come lui. E ha pure ragione, Parenzo. Tu parli sempre, no, all you can eat, non significa merda. Bisogna saper scegliere anche lì. I bambini, per esempio, vogliono andare spessissimo agli all you can eat, perché mangiano lì e mangiano quello che vogliono. Mangiano bene a casa, una bella pizza sana, magari fatta con ingredienti. Aspetta, c'è altro su questo. Non c'entra lo snob qua. Eppe, io sono crucianiano convinto, però no, lo You Can Eat no, e sei un pezzente. Quando vieni a Siena ti ospito al nostro ristorante Sushi Bar Siena, così gli fai mangiare un chilo di sushi a garbo a sta ragazzina, già non gli cambi i lenzuoli, non ti lavi, cioè... Io sono crucianiano, ma la metti a dura prova, cazzo, lo You Can Eat no, e che pezzente. Ti adoro. Allora David, ho un regalo per te che ti ha donato un signore che fa il porno star, capito? Ho un regalo per te, ricorda di questa cosa. Che è arrivato in azienda lì a Milano. È entrato al Sole 24 Ore per portarci dei regali, dei vini per noi. Mostramelo qui in video che io ti vedo. Mostramelo. Ma dopo te lo mostrerò, Comunque, tu non, non ricevi solo regali da gente prestigiosa, prestigiosa no, tra virgolette, che tu consideri prestigiosa. No, non ricevo più, non ricevo regali, anche per policy aziendale, come sai, non si possono accettare giustamente. Comunque, nessun tipo di reali, un signore che libri. Fa il porno star, quindi... che si chiama Tommy Acanaglia, che ogni volta ti bastona sui via WhatsApp, e faremo intervenire anche in diretta in questa prestigiosa azienda che ospita anche dei porno star, delle persone normali, e delle persone che fanno un mestiere con un altro. Canaglia, questa canaglia, cosa ha regalato? Una bottiglia di vino ti ha regalato. Ah, ti ha regalato una bottiglia di vino. Allora, dove andiamo? Andiamo a Vincenzo da Roma, vai Vincenzo. Regalala, regalala. Allora, che c'è? Che c'è, Vincenzo? Che c'è? Ma perché un regalo per te sarà per te? No, perché regala sì, no, a chi? Benissimo, cioè... ma dico, omaggiala... A un immigrato, dici, la vuoi girare a un immigrato? No, ma l'immigrato, no, alle maestranze, alle nostre maestranze. Ma perché? Vincenzo da Roma, dai, Vincenzo. Sì, la maestranza. Allora, io volevo sapere semplicemente se Parenzo... Sì, però non così non si sente, Vincenzo. Sì. Cioè, buonasera, Vincenzo. Cioè, intanto. Togli quello buonasera, che devi dire. Io non ho tolto niente, guarda, sto semplicemente con il telefono in mano. Vabbè. Allora, volevo semplicemente dire questo. Se Parenzo, non è un attacco personale, ma Parenzo, ti devi rendere conto di essere l'utile idiota del capitale finanziario. Che cos'è? Scusa, aspetta, questo qua è l'utile idiota del capitale finanziario, addirittura. Bisogna capire che cazzo vuol dire? L'immigrazione di massa è funzionale al capitale finanziario. Ma chi sei, Roberto Fiore? Chi sei? Cioè... È stata agevolata questa immigrazione di massa soprattutto dal Partito Democratico, che si è servito agli interessi del capitale finanziario. Esattamente, il così, PD ha servito agli interessi del capitale, mi sembra un po' troppo. Cosa c'entro io col PD? Non si capisce. Vabbè, Osvaldo dalla provincia di Torino. Osvaldo dalla provincia di Torino, dai. Buonasera a tutti. Ciao. Senti, dimmi, ma come puoi dare voce a due truffatici così? Ma scusa, no, no, aspetta, però ragazzi, mi fate capire bene al telefono. Osvaldo, dai, parla bene, ti prego. Ho detto, come puoi dare voce a due ladri così? Ma io do voce a chi cazzo mi pare? Ma me lo devi dire tu a chi devo. Va a insegnare agli altri come si ruba. Ma me lo devi dire tu a chi devo dare voce? Ma che cazzo vuoi? Ma chi ti ha chiesto niente? Ma se vuoi ascolti, se vuoi non ascolti. Ma che vuoi? No, ma io ascolto. E qual è? Ma Osvaldo, ma qual è il problema? Non ho capito, che non possono parlare le signore Marchi? Non possono parlare, non ho capito. Oh, Osvaldo. Ma è anche con lui che fa il contratto, deve andare in carcere anche lui, perché tu non puoi pagare uno per insegnare un altro a rubare. Ma che vuol dire? Ma non è che insegnano a rubare, dai. No, cosa possono insegnare quelle due lì? Come si vende? Non sanno neanche cosa vuol dire vendere loro. Loro truffavano, ha ragione lui. Il tuo amico ha ragione, ha sempre però, tolto per me. Scusa. Ma sto giro ha ragione. Però scusa, se vogliono andare a lavorare, che vanno a lavorare in fabbrica. Sì, no, però hanno reso infelici un sacco di famiglie, di persone in grande difficoltà. Ma non è che nella storia. Però scusami, Osvaldo, non è che nella storia. Non ci siamo, Giuseppe. Non è che nella storia della signora. Ha ragione, ma questo ascoltatore. Culo. No, non ci siamo così. Non funziona. Famiglie messe sul lastrico, costrette a dare un sacco di soldi. Ma il contratto per cosa? Per insegnare agli altri come si vende. Scusa, Osvaldo, non è che nella. No, ma devi stare tranquillo, Osvaldo. Allora, nella storia delle signore Marchi non è che c'è solo la truffa. Ci sono anni in cui hanno fatto delle televendite normali, cioè non sono state accusate di truffa. Sì, prima di quello che hanno fatto alla fine. Hanno costruito l'impero con milioni di euro sulla vendita di quelle cose lì. No, io adesso non so quando è cominciata la vendita del sale. E se non sai, informati allora. Quando è cominciata, però so che loro hanno mandato, ma lo so mica solo io, lo sanno le sentenze della magistratura, passate le sentenze. Comunque, Osvaldo, definitive. Che dove le vuoi tu, scusami, in galera le vuoi ancora? No, non più. A pagare hanno pagato, ma smettano con questa cosa, che facciano altro, vadano in fabbrica qualsiasi altro lavoro, perché che vuol dire in fabbrica? Non è che se uno non vuole andare in fabbrica è obbligato ad andare in fabbrica. Ma che dire, che si aprono un'attività onesta? No, non è impossibile. Ma infatti hanno un bar, questa è un'attività onesta. Ragazzi, ma se uno le vuole prendere privatamente, continuano a fare le bariste, non che vada a insegnare agli altri come ci ruba il telefono. Vabbè, Claudio da Milano, dai Claudio. Ciao. Claudio. Buonasera. Chiamavo perché mi volevo riallacciare prima al signore che parlava di prostitute, di andare a prostitute. Io nella mia città gestisco un servizio di consegna a domicilio, consegniamo di tutto e da qualche anno ho messo in rete quelle che sono un po' a tutte le case da appuntamento della città e consegno il martedì al venerdì quelli che sono i preservativi. Ma questo mi sembra ottimo. Allora Claudio ci sta raccontando una cosa. Questo mi sembra ottimo, è un mestiere importante, nuovo. Cioè Claudio sta dicendo che praticamente distribuisce profilattici a casa delle prostitute. Sì, ora, questo mi pare anche nobile. Non so se tu hai chiamato Claudio per fare una marchetta a quello che tu fai. Non credo, spero di no, perché altrimenti ti butto giù il telefono e ti mando a fare in culo. Anzi, ho anche detto che questo è una parte minore del mio business. Però tu dici che porti profilattici a che vuol dire esattamente, concretamente? Cosa vuol dire portare i profilattici a casa delle prostitute? Allora, diciamo che io anni fa avevo conosciuto quella che poteva essere un centro una prostituta che in un qualche modo, quando le ragazze arrivavano in città, le trovava l'appartamento o lavorare nel night, così. E grazie a lei comunque ho messo in rete questa cosa. Loro hanno il mio numero di telefono, oppure fanno l'ordine attraverso la mail. Sì, ma loro quanti clienti hai? Vabbè, un business ha fatto. Ne avrò centinaio. Centinaia di prostitute. Ragazzi, è tutto già legalizzato, è tutta la luce del sole. Questo qua ci sta dicendo che vende dei profilattici a casa di persone. No, io non li vendo io. Allora, loro mi chiamano. Vabbè, ho capito. Io ho fatto un accordo con una farmacia. Io faccio l'ordine alla farmacia. La farmacia, quando io vado nella farmacia, mi fanno trovare. Ho capito, ma il margine qual è? Io il margine della consegna, naturalmente, e poi ho anche una percentuale per quanto riguarda la vendita. Questo è il punto. Hai un vantaggio da questa cosa? Mi pare evidente. C'è prostitute che chiedono preservativi, ovviamente, per fortuna. Dopo non solo, prendono anche poi alla fine le creme di bellezza. È una farmacia. Ragazzi, che ha tutto, tutta questa roba qui deve essere legalizzato, deve essere tutto legalizzato. Le case di appuntamenti devono essere legalizzate. Se uno si vuole prostituire in casa, che sia legale. Non so se questo lo vogliono fare poi, perché in realtà dovrebbero pagare le tasse. Comunque è questo. Giulio da Genova, dai, Giulio. Pronto? Dimmi Giulio, dimmi. Sì, ciao, buonasera a tutti. Vai, dimmi. Buonasera. Io sono un nuovo ascoltatore, vi ascolto da diciamo qualche mese. Però volevo fare un appunto a Parenzo. Vorrei capire qual è il suo stile di co-conduzione di questo programma. No, ma ragazzi, no, una domanda, no, qual no, è no, il suo no, stile? È una domanda che mi ha già annoiato, vai, mi ha già annoiato. Giulio, che cosa vuoi dire? Dimmi una cosa diretta. Vorrei capire da Parenzo qual è il come esatto, chi se ne frega, non è uno stile, c'è quello che pensiamo, ragioniamo sui temi del vabbè, giorno, allora, ci incazziamo. Allora denoto che comunque insulta tutti, nel senso. Ma non è vero, non è vero. Lei ad esempio non la insulto perché dice pacatamente delle cose e mi fa piacere, quindi perché dovrei insultarla? Anzi, no, la abbraccio con il sindaco di prima, ho sentito il sindaco l'ho attaccato, allora ragazzi, però questa persona non ha attaccato lei direttamente, quindi no, certo, però ha fatto degli atti che io ho giudicato. Ragazzi, ma non è, noi, qui ma non stiamo a pettinare, ma non ho capito, ma qui non stiamo a pettinare le bambole, cioè questa qua non è porta a porta, cioè lo capisce o no? E allora non rompere i coglioni, ascoltatore, a capire che cazzo. No, non lo senti, no, e, senti e cerca di capire, punto e basta, ciao, ciao. Il tuo amico Locascio, caro David, il tuo amico Locascio. Beh, uno dei protagonisti del web, ciao, quello che fa ciao, quello lì, ciao, sì, dai. Critica le donne che non sanno fare da mangiare in un modo un po', come dire, sanno fare altre cose ormai, ma non sanno più fare da mangiare. Beh, si può fare anche tutte e due, caro Locascio, eh? Le donne di adesso dicono: le nostre mamme non ci ha avuto tempo di insegnarci come si cucina. È una cazzata. Allora io dico, no, donne, le vostre mamme vi hanno insegnato a fare i boccioli? No, però li facete, giusto? Le vostre mamme vi hanno insegnato a piallo la luculu? No! Non è che la mamma te la dice, oh, stamattina ti insegno per piallo la luculu, metteci la crema! No, però vi piace! Invece che comprare i libri, 50 sfumature di grigio, di prostata, di marrone, di fucsia, comprate i libri per imparare a fare la magna, cazzo! Comprate i libri, 50 sfumature di tortellini, 40 sfumature di lasagne, facetele ste cazzo! No che quando arriva l'amici a casa, che ci fai di buono? Se c'è qualcosa di surgelato, vaffanculo, dopo vai a comprare la pizza a taglio, perché tanto dentro casa non c'è niente! Quella della pizzeria di qua dice, signorina, mi dà 40 pezzi di pizza che ho la mia casa, 100 grandi pezzi di pizza, li mangia qua o li porta via? Che cazzo, li mangio qua, 40 pezzi di pizza, mi cago addosso se li mangio qua tutti, no? Vaffanculo, sta gente c'è con la testa, fate le due lasagne e non rompete i coglioni, parate a cucinare, a fare i cappelletti, perché i boccioli è importanti, ma pure i cappelletti è importanti. Ciao, vi voglio bene, ciao, ciao, ciao. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! La zanzara. Impara a dirle in faccia le parole, vigliacco! Devi dirle in faccia le parole alle persone, hai capito? E cancella le mie foto! Yeah. Allora, ci sono due cose, Davide, che mi hanno fatto orrore negli ultimi giorni. Orrore, sai che a me la gente che insulta su internet non me ne frega niente, lo considero una cosa non troppo importante. Dipende cosa allora, dicono. Allora, un tuo amico, una persona che conosci, in realtà la conosco pure io, che ha fatto il deputato, ex PD, oggi esponente di Liberi e Uguali, pensate, Liberi e Uguali, partito tutto perfettino, quello della Boldrini, quello del signor Grasso, muore l'ex ministro Altero Matteoli. E che cosa scrive questo signore che si chiama Stefano Apuzzo? Cosa scrive? Che è assessore comunale a Rozzano, qui vicino a Milano. L'ex ministro dell'ambiente Altero Matteoli? Un uomo di merda, morte buon, un'espressione napoletana. Un uomo di merda. Brutto, brutto. Un ignorante di rara fattura. Cioè, questo scrive uno di Liberi e Uguali, ex PD, ex deputato, oggi assessore a Rozzano. Una cosa vergognosa. Ma a me va bene tutto, a me va bene l'odio, a me va bene tutto. Però quando uno muore è giusto anche che uno dica: guarda, a me non piaceva come politico, secondo me ha fatto delle porcate. Ma sì, che sì, cosa sono c'entra? D'accordo con te. Ma che cosa c'entra uomo di merda? Uomo di merda non c'entra assolutamente nulla. Sono d'accordo. Cioè, a cadavere caldo, no? A cadavere caldo. C'è un'altra cosa sulla polizia che non trovo adesso. Fammela trovare. Ah, eccola, eccola qua. Allora, c'è stato un incidente di una macchina della polizia in cui credo che sia morta una persona. Un tizio scrive: buon Natale, maledetti poliziotti, con la foto dell'incidente della macchina della polizia. Un tale che si chiama Bevilacqua, una cosa. Che vergogna, che gentaglia che c'è, che gentaglia. Allora, Mohammed d'Arezzo, vai con questo Muslim, vai col Muslim. Ma chi è il Muslim? Vai col Muslim. Mohammed, dimmi. Oh, ciao Muslim. Ma che stai male che io sono Muslim? Ma sicuramente sarai Muslim. Ah, io sono Muslim, marocchinaccio, proprio di quelli che ti fanno stare male. Ma io spero tu sia male. Perché non male. Perché male? Perché mi devi fare stare bene io? Ma perché? Male, scusa, ma perché devo stare male? Scusa, io mi tocco i cosiddetti. Io speriamo, se ti può stare male ancora per me va bene. Ma perché mi devi far star male? Non ho capito. Perché io ti dico italiano? Io sono marocchino, sì. Che problema c'è? Te sei un italiano che si lava poco, no? Sei un italiano che si fa la merda addosso. No, veramente la merda addosso non me la faccio. Comunque va bene lo stesso. No, l'ho detto credere. Una volta, no? Sei un cornuto, uno stronzo, no? Vabbè, ma che vuoi, Mohammed? Che cosa vuoi? Spiegami. Cioè, hai chiamato per dire cosa? Per romperti i coglioni, visto che me le rompi sempre tutte le merite. Io ti rompo i coglioni in che modo? Mi rompi il cazzo perché dici delle cose, parli male di noi, degli stranieri. Sì, io parlo male degli stranieri. Sì, gli albanesi, ieri sera hai chiamato quel ragazzo albanese. Quel ragazzo albanese si è difeso, abbiamo combattuto, qual è il problema? A proposito di Islam, un predicatore turco, un tizio, un giornalista forse, non so se è un predicatore esattamente, ha detto che se ci tagliamo la barba somigliamo a delle donne, dunque non possiamo tagliarci la barba da islamici, no. Perché altrimenti comunque assomigliamo alle donne. Così comunque io ho un amico che era un bravo ragazzo, sì. era un ragazzo bravo anche a scuola, poi ha preso il vizio della droga, ora un ragazzo proprio non si cambia più. Ma a me che me ne frega, scusa, non ho capito. C'ha tutti i denti cariati, non si li cura più. No, ma sono andato dal dentista oggi e mi hanno trovato un paio di carie e un problema a un dente. Mamma mia. E soprattutto hanno detto che mi lavo poco i denti. Mi lavo pochi denti. Questo è vero. Questo è vero, mi lavo pochi i denti. Hanno trovato devi lavarti, riportati lo spazzolino. Me l'hanno detto, devi portarti lo spazzolino in ufficio. Io ho detto, ragazzi, questo mi rifiuto perché non lo farò mai, dunque non mi rompere i coglioni, ho detto al dentista. L'unica cosa che ha detto è che veramente mi hanno trovato le gengive molto infiammate, perché quello è gravissimo, ti cadranno i denti. Ma vaffanculo, mi sono trascurato. Gravissimo. Dunque, ti cadranno i denti. Da gennaio in poi devo fare una piccola operazione su un dente, che non so che cosa è successo, un paio di carie e poi un'operazione di pulizia generale. C'era pulizia generale anche dell'anima, oltre che del dente, dell'anima. È uscito fuori un tartaro dal dentista, che tu non hai idea. Ma non ti vergogna, ma non ti dispiace? Ma però Mohammed, che cazzo vuole? Scusa, non ho capito. Mohammed, che vuoi? Che ti lavi un pochino di più. Ma che te ne frega te quanto mi lavo, quanto non mi lavo? Ti voglio bene, cioè non andare a giro qui denti in quella maniera. Ma sono cazzi miei. Ma perché hai chiamato? Spiegami perché hai chiamato, però. Sentivo questa voce, pensavo fosse un bell'uomo. Poi ti ho visto in televisione, ma sono molto deluso. Cioè, lavati un po', curati un pochino. Ma chi se ne frega di quello che pensi tu? Cioè, non ti preoccupare, che non c'è nessuno, non ho nessun problema io, no? Sì, non ho nessun problema. No, io sono contento, ma che scherzo davvero. Ascolta, avevo visto da qualche parte che Vittorio Feltri con la sua moglie hanno fatto un incidente e sono morti tutti, ma è vero o è una fake news? No, è una fake news, aspetta, perché dici? È una fake news, perché? Non so dove l'ho letta. Perché ti farebbe piacere? Ti farebbe ma piacere? Per carità, no, ma non diciamo sì, neanche per scherzo. Stavo piangendo finora, ma ti scherzi davvero? Ah, perché no, l'hai diciamo, detto? Ma sei uno stronzo, sei. Se lo sai che scherzo, sei una testa di cazzo, lo sai che sei una testa di cazzo. Per scherzo, va detto. Sei una testa di cazzo, sei. Perché? Perché sei una testa di cazzo. Perché sei una testa di cazzo. Ma che scherziamo? Ciao, ciao. Sei una testa di cazzo, ciao. Vabbè ragazzi, fatemi chiamare una persona che conosco. A me piacciono molto le guerre tra, in questo caso, tra i re del porno italiano, storici, re delle, storici del porno italiano. Rocco ha detto che quando era sul set con Cicciolina lei puzzava di capra perché si metteva latte di capra addosso. Che dibattito. Sentiamo la versione di Ilona, vai, chiamiamola. Credo che sia Budapest, sto appena tornata. Pronto? Sì, Ilona? Chi è? Come stai? Sono Giuseppe Cruciani. Ah, Cruciani, come stai? Bene, bene, ma mi hanno detto che sei a Budapest. Ho fatto un reality. Lo so. Sono tornato da poco, ma non è Budapest, produzione è ungherese, sì? Però in Sudafrica. Ah, in Sudafrica. Nella giungla. Come si chiamava questo reality? Celebrity Menskin. Cioè? Sono famosa, aiutami nella giungla, insomma, all'incirca è quella. E com'è andata nella giungla del Sudafrica? Porca miseria, era dura, ma molto bella. Cara amica mia, ti ho chiamato per una cosa. Il signor Rocco Siffredi, sempre lui, parla sempre di te. Ho sentito, visto che tu lo ami tanto, non ti lascio l'intervista riguardo. Ma no, che lo amo, che lo perché amo. Perché lui è uno stronzo, scusa se te lo dico. Ma perché? Ha detto questa cosa qua, che tu puzzavi. Ma secondo te è normale uno che fa una dichiarazione del genere? Pensasse lui che come puzzava, ma parecchio. Pure. Cioè, in che senso puzzava? Spiegami. Vabbè, lasciamo stare perché poi diventa polemica. Lui ha detto, Cicciolina puzzava di latte di capra sul set. Cioè, è vero? Ma quando mai ho fatto il bagno del latte di capra? Ma questo è fulminato di cervello. Cioè, tutto per inventato. La pubblicità inventa di tutto. Addirittura, cioè, si è inventato di sana pianta questa cosa qua. Ma dai, ma per favore, dai, questo è proprio fulminato. Cioè, allora, la frase è questa. Io ero quello che si masturbava davanti a Cicciolina, un mito. Era fantastica, ma utilizzava il latte di capra per restare giovane. Mamma mia. E io quell'odore visto non che lo ero molto giovane e molto bella, non dovevo restare ancora più anziano, diventavo minorenne addirittura. Cioè lui dice, quell'odore non lo sopportavo, puzzava di latte, lascia perdere. Cioè ti tratta proprio come una che sul set puzzavi come una capra, una roba incredibile, guarda. Cioè, lascia perdere. È un ambientino quello lì, è un ambientino, guarda. No, ma è un ambientino lui che secondo me si arrampica su specchi perché vorrebbe farsi pubblicità. Ma secondo te, io che non parlo di Siffredi, come mai Siffredi parla sempre di me? Come mai? Non devi spiegarmi. Come mai? Come mai? Perché si vuole farsi pubblicità col mio nome, tanto semplice. Addirittura? E come no? Com'era sul set? Beh, ne ho visto di meglio, scusa se te lo dico. Addirittura no, ma come lui è considerato un mito, è considerato uno super dotato. Da chi? È considerato uno vuol dire che ha fatto la storia del porno, super dotato, è resistente. No? Qual era il suo difetto principale? Esatto, John Holmes per me è il mito, John Holmes in assoluto. Non gli faccio la pubblicità perché è quello che vuole. No, ma dico, sul set lui che era considerato un mito, tu invece mi stai dicendo che non lo consideri un mito, cioè lo consideri uno come gli altri. Era un attore come tanti altri con cui ho lavorato. E dunque la sua fortuna da cosa dipende? È abile commerciante. Però questa storia qua della puzza non me la racconti bene, no? Tua, io sono sicuro che tu... No, di lui, che cosa aveva nelle parti intime lui? Cioè, ti disgustava, non credo. Senti, scusa se non te lo posso dire di quello, molte cose che non voglio dire nemmeno. Allora, mi hanno detto che hai fatto un'intervista in cui hai raccontato come hai perso la verginità. Dimmi. Io avevo un'amica molto bella, Susanna. Sì. Hai presente una bellissima con la bocca carnosa, bionda, platino, sì, con gli occhi meravigliosi. Stupenda. Susanna, che era più grande di me di età, io allora ero un teenager, insomma, ero una ragazzina. Quanti anni avevi? Avrò avuto 13-14 anni. Ah, poi? E pensa, mi fa, Ilona, andiamo nella discoteca domenica pomeriggio, io e il mio amico Gino, che Gino, suo amico era un ragazzo, un negro enorme, sì. Un bel ragazzo era, sì. Comunque. Ma dove eravate? A Budapest. E io mi hanno fatto conoscere un ragazzino, io dicevo ragazzino perché hai presente un piccolino tutto fragile, tutto così, sì, sì. E, un caffè latte simpatico. Sì, sì. Meticcio, un po' meticcio. Ma molto simpatico, molto carino. Sì. Allora a un certo punto... Quanti anni aveva? E lui studiava medicina universitaria, quindi è più grande di me. 22, 23, 24. Talmente simpatico che mi piaceva. Ci siamo frequentati per diverse settimane, poi è accaduto l'accadibile. Mi ha portato sopra la discoteca, cioè avevano il loro piccola stanza. Sì. Mi ha portato lì. E io ancora ero vergine, lui mi ha sdraiato sul letto, sì. Bianco, sì. Sul lenzuolo bianco. Sì. A un certo punto ci stava riuscendo, però io ho detto il mio bacino muovevo perché non volevo perché era dolorosissimo, t'assicuro. Un dolore incredibile ho sentito, sì. E quando comunque ha finito che insomma, sì. Ho perso la verginità, sì. Io ho detto io non ci voglio più fare sesso, io penso che per 5 mesi non ho più fatto sesso perché ho detto se il sesso è così brutto, così cattivo, così doloroso, mi sembra che dopo hai recuperato, insomma. Poi ho recuperato, hai recuperato molto. Perché sì. Per cui insomma hai perso la verginità, questo è un racconto pazzesco, hai perso la verginità in discoteca sostanzialmente. No, sì, sopra la discoteca, in una stanzina di una discoteca con un ragazzo molto dotato, mi sembra di capire, o no? Sai, non è che era molto dotato, però era duro perché duro. Certo, la cosa è importante. Ha usato anche una certa forza per... A volte sai una cosa, a volte secondo me nella sessualità non è fatto del... che quanto è lungo, quanto grosso, ma sì. Quanto duri. Vabbè, senti, un'altra cosa, novità su tuo figlio, lo hanno chiamato reality poi, perché potrebbe essere la volta giusta questa qua dell'Isola dei Famosi. Beh, mio figlio, secondo me Dulso le ha stroncato la carriera del mio figlio. Addirittura? Beh, tutto sommato, mi pare che l'Isola dei Famosi, dopo Dulso, non ci abbiamo più fatto niente. Mi hanno detto che hai parlato anche di come si trattano i piselli di dimensioni diverse. Io so tutto di questo reality. Madonna. Dentro i reality tu hai parlato anche di come sia, di qual è l'atteggiamento che bisogna avere nei confronti di piselli di dimensioni diverse. È vero, hai che capito la signora? Hai parlato anche di queste cose? È perché ha l'importanza e la dimensione? Importante che sia funzionale, ecco. È importante che sia piacevole, importante che gli uomini utilizzano quella famosa cosa, sì. Che si chiama preliminari perché molto certo. Spesso le donne, sì. Vanno ad asciutto, sì, perché sì. Gli uomini non utilizzano preliminari. Questo è importante, loro pensano solo di godere e non pensano di far godere la donna prima. No, ma sarà contento, signora Staller, per questa cosa che lei dice della pic della dimensione. Il nostro regista La Corte, che notoriamente è poco dotato, ce l'ha piccola. Lo giocherellone, signor La Corte, dica un po' il signor La Corte, quindi rassicuri il signor La Corte, il regista della Zanzara, che anche se è piccolo va bene lo stesso. Io torno sulla vicenda di Siffredi, che è molto interessante come questa diatriba mi appassiona molto. Allora, no. Nel rapporto, diciamo, sul set, sì. Qual era il principale difetto del signor Siffredi, cioè qual era la cosa che a lei non piaceva del signor Siffredi quando faceva queste prestazioni che a tutte le persone paiono prestazioni eccezionali? È un'inchiesta. Era molto snob, non era una semplice tranquillo, era un po' io sono il dio, tipo così, io sono dio, il che non lo era. Va bene, ciao Cicciolina, grazie, arrivederci. Ciao, un saluto, grazie. Lorenzo, tu sei il più grande culatore del mondo, sei il più grande culatore del mondo. Cattiva la Zanzara. Io sono sicurissima che tu, come ti fai una scopata con me, sparisci. Giuseppe, la moglie che riceve la notifica che il marito è stato beccato con una prostituta fa un sospiro di sollievo perché diceva almeno non ti ho beccato a letto con la mia migliore amica. Parenzo, ma siete veramente convinti che conquistare una donna con i vostri metodi radical chic sia meglio, più rispettoso che pagare una prostituta? Ma veramente? Mi piace che mi scopi in parenzo, tu cazzo bellissimo, mi piace. Mi fa infastidire Palenzo, già Palenzo è incredibile, mi fa divertire Palenzo. Ma scusami, ma questa qua? Questa è una diffamazione, chi è questa qua? Ma chi è questa qua? Ma scusa, ma questo qua è tutto vero allora? Cioè è falso anzi quello che racconti? Cosa è vero? Cioè è falso quello che racconti? È il figlio a Napoli e ora questa millantatrice cinese o non so cosa sia thailandese, questa. Thailandese mi dicono, thailandese. Fai questa sentire la voce. Questa prostituta thailandese. Fai sentire la voce. Aspetta. Mi piace che mi scopi in parenzo. Ma chi è? Tu cazzo bellissimo, mi piace. Ma è una diffamazione. Fa infastidire Palenzo. Palenzo è incredibile, mi fa divertire. Ma è una montatura! Ma io vi denuncio tutti, è una montatura! Ma quale una montatura? Pazzesca. Ma montatura di che? Cioè, sono audio che arrivano. Fai l'audio. Ma cosa vuol dire audio che arrivano? Cosa vuol dire audio che arrivano? Che vergogna, che trasmissione, che l'età Maio. Allora, a Napoli si augurano che la Juventus vada in Serie B per illecito sportivo. Il solito Alvino, caro Babbo Natale, spero che la Juventus vada in Serie B. Il signor Alvino vestito da Babbo Natale, senti. Caro Babbo Natale, voglio la Juventus in Serie B per illecito sportivo. A Babbo Natale non si possono chiedere le cose cattive, bisogna chiedere le cose buone. Questa è una cosa buona. Allora Antonio da Genova, vai avanti. Eccomi, buonasera. Allora volevo solo dare un contributo sul discorso di Vannamarchi. Comunque ragazzi, pare che abbiano individuato questo bevilacqua, scritto tra l'altro con la Q sembra, poi dal profilo Facebook MB, che ha scritto "Buon Natale maledetti poliziotti" postando la foto di un poliziotto di 45 anni morto. Pazzesco. In un incidente stradale. Speriamo l'ho identificato, denunciato, aveva 5 figli, ha scritto "Buon Natale maledetti poliziotti". Una cosa vergognosa. Una cosa pazzesca, dai. Antonio, dai, dimmi. Allora, io mi occupo di comunicazione, faccio questo di lavoro e quindi penso di poter parlare abbastanza con una certa... Ma di che vuoi parlare? Di Vannamarchi e se può, non può, o ha qualcosa da tu che ti occupi di comunicazione, non so per chi, non so per cosa, l'avresti presa la signora Marchi? Assolutamente sì. Ma come assolutamente? Sì, cioè, tu dici un gran colpo dal punto di vista mediatico perché ha qualcosa da insegnare nel vendere i prodotti? Ma ti provo a rispondere con una domanda. Se io ti dico tu sei un venditore, che sensazioni hai, positive o negative? Ma per quello che mi riguarda? Sì, tu, di pelle, di pancia. Ma non so, per quello che mi riguarda, che se io mi sento io ti un po'... guarda, sei un venditore, il signor Parenzo, se le dico lei è un venditore. Ma sì, ma è chiaro, cosa vuol dire? È accezione negativa. Perché oggi in Italia l'essere venditore è quello. Cioè? Quindi perché non conoscere il male per capire che la vendita è tutt'altra cosa? In tutto il resto del mondo si fa questo si segue questo approccio. È il falsario che insegna come riconoscere i falsi. Lei ha un metodo comunicativo che è solo la punta di un iceberg. Dietro ci sono una marea di venditori in giro che vi stanno vendendo cose abusando della buona fede. Lei è solo una che ha esagerato. Ma non ho capito. Tu stai dicendo una cosa. Tu stai dicendo è meglio conoscere i metodi più perversi di vendita, i metodi più subdoli di vendita di un prodotto, perché in questo modo si riesce a capire dove ti fottono. Però capito, è un po' strano. Perché non è un caso isolato. Faccio un passo in più. Perché non è un caso isolato. No, ma che non sia un caso isolato, d'accordo. Però non è che c'è. Sì, ma sì, però Antonio, scusami, non è che l'obiettivo di quel corso là che doveva fare la Marchi mettendosi in cattedra o comunque insegnando era quello di insegnare il male o comunque come lei vendeva secondo te in maniera subito le prodotti, cioè era quello semplicemente di dire proprio come si vendeva, perché quello vogliono, forse vogliono la Vannamarchi per quello che dici tu, cioè credo che sia una trovata pubblicitaria. C'è una regola che le tre cose importanti nella vendita sono: la prima è vendere, seconda è vendere e poi la terza è vendere. È vendere, cioè fottere. Quindi, tu dici in sostanza fottere qualcuno. Se per vendere intendi quello, sì. Se per vendere intendi migliorare la qualità della vita estorsione della persona, sono state cosa. Condannate per estorsione Michele anche, da Bergamo, ma non Michele diciamo da sciocchezze. Bergamo, Michele da Bergamo, vai. Sì, pronto. Ciao, dimmi, ciao a tutti, dimmi. Ciao. Volevo intervenire anche io su Vannamarchi e poi volevo dirvi soltanto che a mio parere una persona che ha commesso reati contro il patrimonio non potrà poi lavorare in un'istituzione finanziaria, in una banca, insegnare. Ma sono cazzi dei privati se, le se uno la prende o no? Allora, tu sei papà, giusto, Cruciani? Beh. Tu saresti... Ok, se c'è una persona che ha commesso reati sessuali... Ma se io lo so, non ce la mando magari mia figlia lì a iscriversi, no? Che cazzo vuol dire? Ma se so che c'è la Marchi, posso scegliere se mandare una persona a prendere lezione oppure no. Ma ragazzi, ma che siete matti? Cioè, questa ha pagato, è stata in carcere. Se uno gli vuole offrire un posto di lavoro, anche in un settore un po' delicato come quello della vendita, e certamente loro qualche errore l'hanno commesso, anzi un sacco di errori l'hanno commesso, saranno cazzi loro. Il vero coniglio è quello che gli ha offerto il lavoro, perché pensa che la Marchi sia brava. Beh, poi si è tirato indietro, cioè poteva anche pensarci prima di qualcuno. Un'altra cosa, dopo aver sentito Elona Staller, cioè, sinceramente... Dopo aver sentito Elona Staller, che è stata sicuramente artefice delle mie prime pippe, volevo soltanto grazie dire della notizia. Beh, quello di tutti però, grazie che, esatto, della notizia. Non si è fatto una pippa su Elona Staller. Esatto, d'ora in avanti... qualsiasi fantasia sessuale su di lei sarà nella posa alla caprina, a questo punto, prendendo per il latte di capra che usa. Latte di per... capra, mica è per la caprina o la pecorina. Il latte di capra è quello che secondo Rocco Siffredi sarebbe messo addosso. Ciao. Allora, tu dici delle Marchi, poi noi abbiamo un ministro dell'istruzione che dice percorsi sempre più migliori. Cioè, sì, lo so, e poi dici delle Marchi, e poi dici delle cosa Marchi, c'entra? E cosa poi c'entra? Dici delle Marchi. Solo perché hai i capelli rossi, la ministra, come la signora Vanna? Ma che c'entra? Mica ha commesso reati la signora e la ministra. Perché offrono percorsi di assistenza sempre più migliori a studenti e studentesse. Anche questo è un punto di responsabilizzazione. Ministro dell'istruzione, io chiamerei però l'amico Apuzzo, il tuo amico Apuzzo, per fargli un mazzo così sulle cose che ha scritto su Matteoli. Vai. Telefonata, vai. Pronto? Apuzzo! Sono io. Amico mio, sono Cruciani, ciao. Come grande Apuzzo! Come, ma che cosa hai scritto, amico mio? Ma più che grande, io direi grande. Grande, esatto, sì. Molto grande. Cioè, molto grande nel senso che sei un coglione, in questo senso? No, il grande non ha attinenza diretta con i coglioni, è più altero. Hai detto grande, che poi il grande in realtà non è tecnicamente un coglione, il grande. Cioè, appunto, il grande sta più su, più altero, diciamo, ecco. Come più altero? Ancora con sta storia? Sta più su. Cioè, come più altero? Amico più altro. Uno che scrive l'ex ministro dell'ambiente Matteoli, un uomo di merda, morto e buono, un ignorante di rara fattura. Amico mio, ma è una cosa scandalosa. Verrai denunciato, verrai denunciato? Ma non credo. Come no? Ti denunceranno, c'è gente scatenata su questo. Vabbè, auguri, buon divertimento. Ma come auguri, buon divertimento? Ma come ti è venuto in mente, scusa? Allora, ho conosciuto Matteoli perché è stato ministro dell'ambiente di tutti i governi Berlusconi. Allora? Amico dei cacciatori, dei cementificatori, grosse infrastrutture inutili, eccetera, eccetera. Quindi come ministro dell'ambiente non valeva un granché. Una volta che è stato questo, amico dei cacciatori, il giudizio è negativo. E chi se ne frega? Homme merda è un giudizio negativo eccessivo, difatti poi ho chiesto scusa perché homme merda non è un giudizio che si ma uno lo può anche dire morta. Quando uno è vivo, ma quando uno è morto dopo due secondi gli dici uomo di merda. No, ma gliel'abbiamo detto per 20 anni, homme merda. E ho capito, però allora, quel giorno là... Il concetto successivo, cioè morte buono, la morte non lo renda santo, questo vuol dire. La morte non lo rende santo. Questo ma, è quindi, ma che ha fatto questo? Avrà fatto delle cazzate come tutti, ma addirittura dirgli appena uno muore. Ma mica era un dittatore, no? Ho capito, non era Hitler che uno dice, vabbè, d'accordo, uomo di merda. Cioè. Allora, premesso che per la mia indole, per la mia cultura, io non esulto per la morte di nessuno, non ho esultato per la morte di Totò Riina, per dire. Invece appunto, che era pieno di merda, sì. Marto, devi bruciare, sì, soffrire all'inferno, tu e la tua famiglia, cioè, eccetera. Quindi non ho esultato per la morte dell'ex ministro Matteoli, ho semplicemente ribadito un giudizio negativo che era, seppur morto, non può essere santificato. Però scusami, Apuzzo, quando uno dice Matteoli, uomo di merda, un secondo dopo che quello è morto sull'autostrada, amico mio, quello ti dovresti. Ma ti dovresti vergognare per quella roba là. No, non mi vergogno. Mi sono vergognato dell'homme merda che ho subito rimosso. Ciao, grazie. Si potrebbe dire grazie al cazzo, non grazie, grazie no, al cazzo. No, infatti è una cosa su. Veramente vergognosa e irrispettosa verso la famiglia e anche verso la storia politica di Matteoli. No, ma che è stato Adriano, un Brescia, uomo dai. Vabbè, non c'è che bisogno non merita adesso, di... ma no, frega, invece dai. Sì, invece sì. Ma Adriano da Brescia, vai. No, capisco stare non pensarla come Matteoli, ma dire queste porcherie, dai. E quell'altro continua a lavarsi la ganasce con la saliva. No, non ho capito, scusa. Mi sto dicendo, mi dici Adriano da Brescia, ma il pigmeo non mi fa parlare. Sì, voglio parlare per il capotreni. Sì, io dimmi. Sono un ex autista, sì. Sono un artigiano e adesso faccio il manutentore. E ho dei ragazzi assieme, sì. Anche uno è laureato, altri tutti con gli studi arti, ma non trovano lavoro, lavorano con me, picchiano la mazza, il basile, la pala. E allora? Manovalacci siamo. Questi dicono, ma se su quei treni lì, e fanno tutti arti marziali senza spade e senza coltelli, senza pistole, con le proprie mani, sì. Dice, si affiancassero su un treno un paio di noi, no? Sì. Sì. Quando viene aggredita la signora dei biglietti, sì. O il capotreno, uno di questi, sai quanti ce ne vogliono di quei parassiti lì che ti stanno cinguando il sangue addosso, quanti ce ne vorrebbero? Minimo 10 per piccare uno dei miei. E allora? Quelli, prendono 4 euro all'ora, per 4 euro all'ora vanno lì sopra a difendere le donne e a difendere i deboli. Lo so, allora mandaceli tu, perché qualcuno non li ha. Bisogna che qualcuno mi dica, guarda, mandali da me, li assumiamo, lo Stato maledetto. Ma chi sarebbero questi? Chi sarebbero queste guardie del corpo, questi vigilanti? Ma no, sono ragazzi che lavorano con me perché non trovano lavoro. Beh, ho capito, amico mio, non è che sui treni uno si può inventare una milizia privata che va a difendere le persone sui treni, sarebbe ma paradossale. Che scherziamo? C'è la Polfer, polizia di Stato, ma si veramente chiama Polfer. Ma sta zitto, teni infame, però vuoi sapere se sono la poliziotta, i poveretti che non chi possono neanche buttare la mano qua? Sulla pistola. Ma chi è sto involuto qui? Come si chiama sto involuto qua? Adriano, Adriano l'involuto. Perché gli hai detto l'infomane, scusa? Perché, ma non l'infomane sessuale, è un povero diavolo. Perché il povero diavolo è lei, il povero diavolo. È involuto. Sono un pigmeo di figa che non mi fai mai parlare. Vieni da Sabbia, da Salò a Ponte Caffaro sul confine, vieni là a buttare via le scritte e a tirare via le facce del giudice. Del duce. Maledetto chi? Involuto che non sei altro. Adriano, io rimanderei la conversazione. Adriano la scimmia. Io rimanderei questa fantastica conversazione con te a domani. Ti possiamo trovare telefonicamente domani? Ma perché? Sì, io rispondo sempre a telefono. Certo, c'è cazzo da fare tutto il giorno. Per forza. Mi raccomando, domani Adriano, picchia duro, dimmi. Giuseppe, se ti metti in testa, sai quanti seguono uno come te? Gli uomini come me, che hanno le mani crepate, basta che tu dai l'ordine e ti seguiamo subito. L'ordine di che cosa? Di invadere Roma, di fare cosa? Sì. Ma l'ordine di cosa devi dare? Italiani! L'ordine di andare a fare in culo. E vinceremo, Adriano! Yaol! Ciao! Come Yaol? Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.